Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Esiste un'etica degli economisti e in generale dell'economia, soprattutto in una fase di grande incertezza e di repentina trasformazione quale quella che stiamo vivendo? L'interrogativo è centrale ed è stato dibattuto in particolare in occasione del convegno svoltosi sulla figura e l'insegnamento di un grande economista dei nostri tempi, quale Paolo Silo Slabini, scomparso il 7 dicembre del 2005. Convegno organizzato da Economia Civile con il patrocinio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e della Società Italiana degli Economisti, che si è svolto presso l'Università di Roma La Sapienza il 4 dicembre dello scorso anno. Ne parliamo questa sera con l'economista Alessandro Roncaglia, che è stato allievo di Silo Slabini. Buonasera professore e benvenuto. Allora, ascoltiamo prima di tutto questo passaggio del suo intervento al convegno, poi ripreso e pubblicato dalla rivista Moneta e Credito, che è disponibile anche online. Silos ricordava spesso una frase di Salvemini: la tragedia dell'Italia è la sua putrefazione morale, l'indifferenza, la sua sistematica vigliaccheria. L'adesione appassionata a un codice di moralità intransigente era per Silos una questione di dignità personale, oltre che di difesa e sviluppo dell'incivilimento delle società umane. Le due cose sono strettamente connesse, come ricordava in un convegno del giugno 2003, dall'onore del gentiluomo all'onore del cittadino, in cui si richiamava gli insegnamenti di Adam Smith, che prima di essere un economista è un filosofo. Nella teoria dei sentimenti morali del 1759, Smith sosteneva che fa parte della nostra natura di esseri umani il tenere conto degli altri. La cosiddetta morale della simpatia, nel senso etimologico di sentire comune, anche quando perseguiamo il nostro interesse personale, che proprio per questo motivo non è egoismo assoluto ed è vincolato da norme sociali. Il rispetto di queste norme è assicurato sia dalla nostra coscienza personale, quello che Smith chiamava l'arbitro invisibile, l'omino nascosto dentro ognuno di noi, sia da istituzioni quali l'amministrazione della giustizia e la polizia. Solo a queste condizioni la società può sopravvivere, tanto più se si tratta di una società basata su un'economia di mercato. Non è necessario, perché le cose vadano male, che i comportamenti illegali si diffondano tra la maggioranza della popolazione. Sono sufficienti l'acquiescenza supina, il chi me lo fa fare, magari favoriti dall'inefficienza della giustizia. Come diceva Martin Luther King, la cosa peggiore non è la violenza dei malvagi, ma il silenzio degli uomini onesti. Allora, professor Roncaglia, perché è importante, come lei stesso ricorda nel suo saggio, l'adesione a un codice di moralità intransigente anche nel lavoro di docenti e ricercatori in campo economico? L'economista utile, lei sostiene, è un economista eticamente impegnato che persegue il bene comune. Il problema è che in economia molti colleghi sono abituati a ragionare come se ci fosse una verità unica, ovvia, che quindi detta quello che bisogna fare. E in realtà non è così, perché non solo di fronte alle scelte di politica economica, ma anche alle scelte teoriche, ci sono tante posizioni diverse, ognuna con una sua legittimità in un certo senso, che debbono dibattere tra loro in modo aperto e civile. E questo è un primo requisito di proprio etica nel fare il lavoro del ricercatore, cioè ognuno di noi sosterrà le proprie idee, ma lo deve sostenere in modo aperto, riconoscendo il diritto all'esistenza, diciamo così, degli altri, che ogni tanto purtroppo viene negato. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è quello del conflitto di interessi, cioè gli economisti non sono biologi che studiano il comportamento dei microbi, noi studiamo la società in cui viviamo e di conseguenza siamo coinvolti in quello che studiamo. Molto spesso abbiamo una posizione all'interno della società che può essere, come dire, avvantaggiata, posta in risalto da quello che diciamo, dalle teorie che sosteniamo. Ci sono stati dei casi clamorosi. Un economista americano aveva sostenuto in un articolo molto importante che l'economia islandese stava andando benissimo perché era stato consulente del governo islandese, certo. Ma nell'articolo non lo si diceva. Ecco, il, confl- conflitto di interessi vero e proprio. È un conflitto di interessi vero e proprio. Sì. Ecco, ma senza arrivare a questi estremi, ognuno di noi deve capire che il modo nostro di vedere la società dipende da quello che noi facciamo e siamo all'interno della società. Chiunque abbia uno stipendio fisso teme l'inflazione più di chi abbia un reddito che può essere adeguato facilmente, quindi certo. Ci sono tanti esempi che possiamo fare. Lei sostiene che il gioco sociale non è mai o quasi mai a somma zero. Per trovare una composizione positiva degli interessi in conflitto è necessario riconoscere l'esistenza del conflitto, non negarlo o reprimerlo. Anche questo ripropone il problema di una teoria economica che non può essere presa come onnicomprensiva, che non può dare una risposta esatta su tutto. Ci possono essere risposte diverse. Se ci possono essere risposte diverse, dobbiamo vedere qual è la migliore, ed è difficile stabilirlo, perché la migliore per chi? Ci sono dei casi di discussioni famose. Io nell'articolo cito il caso di un dibattito, una pubblicazione del 500, tra persone che discutono delle enclosures, la recinzione delle terre comuni per dare spazio all'allevamento del bestiame, che è stato un passo in avanti necessario, ma naturalmente avvantaggiava gli uni e sfavoriva molto pesantemente altri. La discussione deve trovare il modo di stabilire se una cosa è nell'interesse generale, si può trovare modo di compensare chi ne viene danneggiato, si possono trovare delle forme di realizzazione che cerchino di temperare la situazione di tutti i vari gruppi coinvolti nella scelta. Se si parte dal principio che c'è una sola soluzione esatta e quindi si nega il conflitto, non si arriverà mai a trovare delle soluzioni condivise. Ecco, la vorrei portare, professore, un attimo sul terreno dell'etica e economia in senso lato, perché dall'esplodere della crisi del 2008 il tema dell'etica in economia, al pari dei comportamenti, se vogliamo, dei diversi soggetti economici coinvolti, è tornato fortemente d'attualità. A che punto siamo, professor Roncaglia, da questo punto di vista? Siamo molto indietro. Da un lato, dopo un ventennio liberismo sfrenato in cui si è lasciata correre la finanza quanto voleva, adesso è difficile trovare modo di imbrigliarla, e la speculazione finanziaria che guarda al brevissimo periodo è spessissimo accompagnata da comportamenti distorti. Si pensi a tutti quei consulenti che suggeriscono investimenti nell'interesse dell'istituto finanziario per cui lavorano più che nell'interesse del cliente. Si pensi a quanti processi è in corso oggi una grossa banca come la Deutsche Bank. C'è un problema grosso di questo tipo, che è diverso da un altro problema che è pure enorme, che è quello della diffusione della illegalità, mafia, criminalità organizzata. Tutte queste cose pesano enormemente sulla nostra vita civile e sulla nostra economia. Lei pensi che quando si dice che l'economia illegale è il 10-15% del fatturato globale, del PIL, di quello che si vuole, in realtà si sta dando una misura in modo sbagliato del fenomeno, perché se si paga una tangente del 10% per far costruire un ponte inutile, o lo si costruisce in modo che poi crolla perché con la tangente si sono evitati i controlli, il danno non è la tangente del 10%, quello che finisce all'economia criminale. Il danno è il valore di tutto il ponte. Se un imprenditore non avvia un investimento perché la mafia, lo sconsiglia, quello che si perde, quello che la società perde, non compare per nulla nel PIL. Quindi quel 10% o 15% è una sottostima clamorosa del problema. E il problema viene da tante cose. Un conto è appunto una maggiore maggiore diffusione della moralità, e certo, un altro conto è l'intervento pubblico che la deve aiutare, un miglior funzionamento della giustizia, tutta una serie di piccole anche questioni che vanno affrontate e risolte. Che fanno capire, professor Roncaglia, in conclusione, che il tema, come dire, dell'etica e economia diventa centrale, non è affatto un dibattito, come dire, consegnato semplicemente agli addetti ai lavori. Assolutamente no, è un dibattito che riguarda tutti. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi. Professor Alessandro Roncaglia, che lo ricordiamo, è stato allievo di Paolo Silos Labini e questa sera ci ha parlato, ci ha aiutato a capire un po' meglio il tema dell'etica degli economisti e più in generale della moralità e dei comportamenti che occorrerebbe seguire nel campo dell'economia. Di nuovo buonasera, professore.